Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ah, povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino e quello che è peggio, hai la testa di legno. Per tua regola io non sono più un burattino di legno, sono un bimbetto in carne ed ossa. Io non me ne andrò di qui se prima non ti avrò detto una grande verità. Guai a quei ragazzi che fanno soffrire i loro genitori, prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Parla pure, Grillo, tanto appena fa giorno io me ne vo'. Perché ridi? Povero Grullavello, ma non sai che facendo così diventerai un grandissimo somaro? Ricordati cosa hai promesso alla fata. Noi per istinto siamo sempre stati dalla parte di Pinocchio. Io continuo a essere dalla parte di Pinocchio, che prende a martellate il grillo parlante, anche se ormai ho i capelli bianchi. Ma perché? Per uno spirito interiore particolare. Ma in realtà quello che dice il grillo andrebbe ascoltato, perché è la chiave di molti nostri malesseri, che oggi ci colgono impreparati, dati proprio dal fatto che ci manca quel filo indissolubile, ma allo stesso tempo facile ad essere reciso, proprio perché è tenuto in mano da persone che sanno il fatto loro, che è la possibilità di trasmissione di un sapere, di una maniera di orientarsi nella vita da parte dei nostri genitori. Oggi non c'è più educazione, dicono le persone che guardano i ragazzi che urlano negli autobus, che si mettono le dita nel naso, che sono sguaiati, che dicono parolacce, e di fronte a questa parola non possiamo altro che stare dalla parte dei ragazzi che urlano, perché non ci piace questa visione beghina della realtà. Ma il fatto che non ci sia più educazione però è qualcosa che profondamente è alla radice di molte nostre insicurezze e molti nostri malesseri. Questo almeno ci dice un validissimo, importantissimo neuropsichiatra italiano, che è anche un nostro amico, che è Vittorino Andreoli. Professor Andreoli, buongiorno. Buongiorno. L'educazione impossibile è l'ultimo libro uscito per Saggi Rizzoli di Vittorino Andreoli, e parla proprio su questo tema, che è difficilissimo da affrontare senza sentirsi o un salesiano o una sorta di passatista nostalgico dei tempi passati. Però Vittorino Andreoli ha avuto il grande coraggio di rifare dei punti sull'educazione. Manca l'educazione, e per questo noi oggi ci troviamo sul ciglio di un baratro e non sappiamo mai cosa ci sarà sotto. È sbagliato quello che ho detto o corrisponde un po' al suo pensiero, professore? No, corrisponde moltissimo, perché è vero che oggi noi parliamo di crisi e che siamo dentro una crisi che continuamente definiamo solo economica. In realtà la crisi in cui ci troviamo è molto più importante se guardiamo ai nostri figli, perché non siamo più in grado di stabilire con loro dei rapporti che possano proprio parlare di educazione. Ma perché per noi sembra primario, ci preoccupiamo più del fatto che abbiano un lavoro, che abbiano una famiglia, che siano felici, e non pensiamo che non gli stiamo dando nessun strumento per affrontare comunque la vita? Ecco perché forse è addirittura più facile, nonostante il 46% di giovani senza lavoro, trovare un lavoro che educare. Perché se non si educa con passione e facendo in modo di sentire che educare l'altro è anche una maniera per educare se stessi, per migliorarsi, oggi per imparare, questa è la vera crisi di una società. Perché è una società che non produce, non porta alle generazioni future. Perché a un certo punto, secondo me, professore, sono scomparsi i genitori. Eravamo tutti figli, e figli fanno altri figli, e quindi come si fa a educare se sei figlio? Ecco, infatti questo è uno dei punti. Io definisco in questo libro, L'educazione impossibile, definisco che cos'è appunto questa società. Perché? Perché, vede, bisogna smetterla di pensare che risolviamo il problema dei nostri figli aumentando il numero degli asili. È utilissimo, facciamolo, ma non è questo il problema. Non è nemmeno possibile risolvere il problema con un altro importante, aumentare la dignità attraverso il salario degli insegnanti. Quindi sono tutte cose importanti. Ma non, però, non risolvono. Ma non risolvono. Questa è semplicemente per distribuire delle colpe. La colpa al padre, poi alla madre, poi agli insegnanti, a tutto, insomma. Allora, io sono stanco che si distribuiscano colpe, perché in questo modo non facciamo altro che continuare a non educare pensando di trovare le soluzioni. E chi deve prendersi la colpa? Deve fare questo atto di coraggio. Allora io ho detto, guardiamo veramente che cos'è questa società e chiediamoci, è possibile in questa società educare? Allora, bene, questa società è senza famiglia, lo diceva lei. Non è solo senza padre. Lo dico padre. Spesso, è scomparsa. Non c'è. È non una c'è. Reliquia del passato. Sì, e poi questo lo dimostra l'aumento vertiginoso dei single, che vuol dire non accettare nemmeno più questo insieme che si vorrebbe fare come la cellula naturale, straordinaria. In realtà non c'è famiglia, perché all'interno di un ambiente in cui esistono delle persone, non c'è una unità. È come se noi prendessimo, volessimo fare un quartetto e abbiamo un violino, un contrabbasso, una viola, che però ognuno suona per conto proprio. Io penso che oggi proprio è cambiata la qualità del tempo e quindi dobbiamo reinventarci qualcosa al posto di questo nucleo. Ecco, perché innanzitutto bisogna inventarci che noi siamo non tanti io separati, ma siamo un noi, c'è un insieme. E poi lei ha detto giusto, un insieme nel tempo, quindi con un passato, con un futuro. Questa società insegna ai giovani cos'è il futuro o ha ucciso il futuro? Qual è il futuro per un ragazzo? Noi vogliamo che quel Pierino sia un bravo studente, perché i genitori sono contenti se è primo, secondo, terzo della classe. Ma com'è possibile poter impegnare con passione degli studenti, dei ragazzi in una scuola, quando in fondo il messaggio segreto è dire cerca di essere bravo, ma non conta niente, perché tutto il percorso scolastico non ti darà strumenti per poter affrontare la vita in modo più positivo. Allora innanzitutto dico il numero 800240024, siamo presi alla nostra chiacchierata ma siamo in diretta, ci piacerebbe sapere come la pensate voi verso l'educazione. Esiste una forma di educazione, poi diremo quali sono state quelle che storicamente hanno segnato l'umanità, ma oggi è difficile trovare la formula per l'educazione. Come educate i figli? Beh, li educate magari a essere rispettosi degli altri, e gli altri poi non sono rispettosi di loro, quindi dovrete fargli l'occhiolino e dire sì, sei rispettoso, ma fino a un certo punto, se puoi dare un calcio nelle parti basse, dallo, se questo ti salva e ti permette di sopravvivere. Ma una volta, oltre diciamo a dare degli strumenti per diventare ingegneri, medici, artigiani, si diceva poi ti troverai un bravo ragazzo, una brava ragazza e metterai su famiglia. Ma oggi nemmeno un pazzo lo dice. No. Agli amici miei ancora in età da famiglia, il mio collega Fabrizio Intonti, che ha una quarantina d'anni, dico guarda, se poi non ti sposare, e dice uno che è sposato da oltre 30 anni, però se poi non lo fare non ti conviene. Certo, perché proprio è molto difficile oggi che gli io, ma vede, c'è una cosa che vorrei dire. Ma io non li vedo in noi, professore, come mai? È un mio grosso limite. No, il mea culpa, noi abbiamo dal 1900 con Freud, abbiamo Freud scopre l'io e l'abbiamo poi continuamente elogiato, la forza dell'io per fare in modo che l'io sia sereno o felice, bisogna togliere i conflitti dell'io, io, e non abbiamo mai costruito in noi. Cosa vuol dire costruito in noi? Che una classe a scuola è il centro dell'attenzione per gli insegnanti, non i singoli che compongono il gruppo. Oggi esiste di 27. Solo del tifo sportivo, un pochino della passione politica, poi così transeunte e mutevole che anche la politica fa ridere. Non c'è il senso di chi è unitario a me. Boh, le persone mi fanno star bene, quelli che mi fanno fare due risate, ma la volta dopo magari li guardo meglio, sì, e mi stanno antipatici. Ecco, ma non c'è, no, ma non c'è nulla di comune. Quell'insieme. No. Non c'è che suonia. Ma perché appunto abbiamo. Costruire un noi coinvolge tutti, mentre nell'io il padre dice tu figlio devi fare questo, non dice mai noi, perché non dice facciamo insieme. Ecco, non c'è mai questo, ci sono gli ordini oppure i silenzi, che vuol dire fai quello che vuoi. Sentiamo Luca, primo ascoltatore. Luca, buongiorno. Buongiorno, salve. Parlavo del concetto di famiglia che ormai sta svanendo e sentivo parlare di colpa, o la colpa di chi è, o senso di colpa. Io vorrei eliminare questa parola, perché secondo me non ha più la vedo un po' artificiosa. Si prova da secoli, non è così facile. No, infatti, ma visto che c'è il cambiamento, la donna, perché poi il concetto di famiglia, secondo me, è stato quello che è stato semplicemente perché è stato un compromesso storico tra la figura dell'uomo e la donna, perché la donna ha sottostato culturalmente all'uomo e quindi la famiglia ha retto fin quando c'è stato questo. Certo, c'era un capofamiglia, sennò che famiglia è? Esatto, adesso non è più così e bisogna prendere atto. Il fatto dell'educazione dei figli, la scuola, eccetera, è dal fatto che, come ha detto giustamente l'esperto, non c'è più una figura di riferimento, nel senso che la mamma e il papà lavorano tutti e due, la scuola è quella che è, e questo è il dato di fatto. Poi sono ambivalenti e interscambiabili per forza, perché deve essere così, se no non si regge. Ma come una domanda, Luca, le faccio, poi sentiamo il professor Androli. Secondo lei la soluzione è un ritorno al modello tradizionale, quindi fermiamo tutto o bisogna avere tanta fantasia e reinventarsi qualcosa? Io ho avuto occasione di leggere Alice Miller, che è una psicologa, diciamo che ha tracciato lo spazio. Sì, ma come la pensi lei? Lasci perdere Alice Miller. No, ma è molto semplice, dove riporta le origini semplicemente andando nell'educazione del bambino come essere umano, come già capace di apprendere, quindi non considerarlo come una proprietà, perché giustamente stavo sentendo dopo 3 secondi fa il discorso del padre e figlio, il padre dice al figlio tu devi fare, semplicemente quando nasce un bambino è già un essere vivente, quindi va trattato come tale. Oggi è più facile che si facciano battaglie in piazza per i topolini cavia dei laboratori che per i ragazzi. Professore Androli, Lei dice che a un certo punto nella società si stabilisce il principio che l'eretico viene messo ai margini della società, anche chi è eretico nei confronti della religione dei padri, quindi della cellula fondamentale della società che è la famiglia, è considerato un malato, un patologico. Chi oggi pensa che la famiglia è un modello da ripensare è un pazzo o una persona che va in un ordine innaturale. Ma esiste questo ordine naturale? Certo, non esiste, ma se lei mi permette, mi piacerebbe dire a Luca che proprio quello che io ho cercato di esordire in questo incontro, dicendo proprio che bisogna finirla con le colpe, però valutare un insieme, proprio perché le colpe non risolvono i problemi. Ma la famiglia è una famiglia storica, noi la dobbiamo vedere dentro il tempo, e questo deve anche farci vincere la tentazione di pensare che la famiglia di prima sia paragonabile con oggi. La famiglia che io ho vissuto nella mia adolescenza, nel dopoguerra, io sono vecchio, ebbene, era tutto un altro, era un altro assetto sociale. C'era un equilibrio che si è completamente rotto perché? Era incardinata su strutture che non esistono più. Che non esistono più. Mentali, psicologiche, religiose, etiche. Non si può confrontare, certo. Vede, quindi bisogna, e questo dice che non esiste una famiglia naturale, se si usa il termine alla maniera di Kant, cioè di qualcosa di strutturato in modo preciso e che si deve continuare nel tempo. Ma noi dobbiamo trovare all'interno di questa società e partire proprio dai limiti. E ripeto, è possibile che una società possa educare? Una società vuol dire prima io stesso, con i miei nipoti, i nonni, tutti, non solo i padri, la scuola. Vuol dire, ma può funzionare, può educare se non dà il principio del futuro? Se è questa una società dell'inutile e non del necessario? Allora ci fermiamo soltanto un istante a dare le informazioni del traffico, poi riprendiamo il filo per non pensare che il libro del professor Androli è un libro pessimistico, si ferma a metà dicendo è fine. No, non è così, no. c'è una via di uscita o perlomeno di sollievo. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando con il professor Vittorino Androli, neuropsichiatra, psichiatra italiano, il maggiore psichiatra italiano, anche autore di un'infinità di libri che ha appena pubblicato per Rizzoli, L'educazione impossibile, come orientarsi in una società senza padre. Stavamo analizzando il modello della famiglia, che è un modello che siamo i primi a dire che, come era strutturato nella forma tradizionale di cui abbiamo ancora una memoria storica e genetica, è difficile riproporlo in questa società. E cosa fare? Intanto sentiamo Raffaella, buongiorno, prima ascoltate. Buongiorno, io chiamo da Trento, due ragazzi. Cioè, io posso essere anche d'accordo con i ragionamenti che state facendo, ma in realtà io invece ritengo che altrimenti noi quarantenni veramente siamo arrivati alla frutta. Do degli esempi ai miei figli di impegno, anche a livello di studio. Mi rendo conto che il sistema scolastico italiano non funziona, il mio grande fa le prime superiori, ma nello stesso momento le dà i primi strumenti. Poi a casa, anche col marito, il padre, insomma, cerchiamo di farlo involgere poi nella curiosità delle cose, non in maniera settica. E poi con l'esempio, io ho 47 anni, ma continuo a dire a mio figlio, il mio lavoro mi porta a sempre a migliorare, perché conoscere, comunque migliorare, rende indipendenti e liberi le persone. E il suo figlio, secondo lei, le dà ragione? Le dà retta? L'ascolta? O sono in un'infinità? Sì, abbastanza. Dopo, naturalmente, credo che è molto comodo a volte, no? Non vedere anche come genitori. E quindi, ad esempio, il nostro figlio ha anche dei compiti, vuole fare da solo, ma allo stesso momento le dico sempre, guarda che noi possiamo aiutarti, quindi se ritieni, e lui va anche molto bene a scuola, che hai bisogno, noi ci siamo. A volte fa comodo, vedo altre cose. Ferma lì, Raffaella, sennò diciamo, mettiamo troppa carne al fuoco. Professor Vittorino Androlli, vede, Raffaella, per Raffaella l'educazione è stretta all'esito scolastico, al merito scolastico. Fai i compiti, quindi finisce lì. Dei modelli tradizionali di educazione sono tanti. Una volta si bastonava, poi c'è, io sono un figlio della Montessori, mandavano la Montessori i miei nonni mi guardavano con orrore, verrà fuori un discolo perché farà quello che vuole. Poi ce ne sono anche altri modelli. In che modello è inserita, diciamo, la struttura familiare dell'ascoltatrice Raffaella? Ma innanzitutto bisogna, credo che si possa dire alla signora Raffaella che ci sono delle famiglie che funzionano. Con questo noi non vogliamo demonizzare i casi, ma parliamo di una considerazione che è dominante oggi in questa società. Però voglio ricordare alla signora Raffaella, signora, stia attenta che non basta la famiglia, guardi, non basta nemmeno la scuola, perché poi c'è internet, poi c'è il gruppo dei pari età, poi c'è tutto l'ambiente sociale che pesa sulle cose. Quindi bisogna che anche chi è così legato alla famiglia e funziona, esempi, tutto magnifico, tenga conto che non sono le uniche due fonti della educazione, ma ci sono tanti altri input che non c'erano prima e che non derivano né dalla famiglia né dalla scuola. È incontrollabile. Ma ecco i tre modelli. Questo è un modello dell'esempio, è un modello che si lega a quello del padre, cioè quello del dire io ti lascio libertà, ma questi sono i principi, questa è l'imposizione. Il primo modello dell'imposizione, cioè della religione del padre, Yahweh ha detto, ha scritto, ha ordinato. Che oggi non funziona. Si fanno una risata. Non funziona, anzi, sempre di più osserviamo che poiché i padri obbligano, i figli fanno esattamente l'opposto, e se non ci fosse stato quell'imperativo non l'avrebbero fatto. Lo fanno cioè per quello che chiamiamo la opposizione. Allora, il modello patriarcale, oppure della famiglia del patriarca, non regge più. Perché era basato su un principio metafisico, etico, che non esiste più. Sì, ma poi non è condiviso. Ma poi parliamoci chiaro. Ma i padri di questa società, io spero che sia così, il marito della signora, ma sono veramente dei grandi esempi da imitare? Sono degli esempi di coerenza? Leggiamo i giornali, sono solo pagine di padri ladri. Questo mette perlomeno un velo su questa cosa. Diciamo questo per essere giusti, che anche una volta lo erano, però c'era una facciata di... No, ma adesso... Figuriamoci, io ho dei nonni integerrimi, poi quando uno muoiono scopre i loro scritti, le loro cose, accorge che hanno dei farabutti come gli altri. Certo. Ma è normale, però una volta c'era un meccanismo di protezione. Però adesso, veramente, insomma, il padre furbo è quasi una regola. Certo. Perché anche questa società è quello che ti salva. Cioè, è questa una società che ha bisogno. Perdente, avere un padre perdente è terribile oggi. Allora, questo è il primo modello che non regge nell'insieme. Andiamo al secondo. Secondo modello è quello del laissez faire, lascia fare. cioè che facciano quello che vogliono. È un po' una interpretazione di Rousseau. No, i figli nascono buoni, poi sì, ma era la scuola... anche una grande furbata per non prendersi le responsabilità. Allora, il problema di dire, ma tanto lasciamoli fare, li guardiamo dal di fuori, è una maniera, prima di tutto, per deresponsabilizzare le persone, per allontanarle. Ce n'era un terzo di metodo. C'è il terzo. Il terzo è quello, puoi fare tutto, cioè l'incoerenza educativa. Oggi fai così e ti dico bravo, domani fai la stessa cosa e ti dico invece che non si può, anzi... È l'ideale per far schizzare fuori di testa i figli. Sì, perché questo è la schizofrenia educativa, per cui non sanno più quale modello sia riferibile e imparano anche qui a sopravvivere. Il papà mi ha detto di no, siccome il papà ha litigato con la mamma, vado dalla giocano mamma. Giocano sul doppio legame, soprattutto nelle famiglie in crisi, famiglie separate. Tutto. Dimostrando una grande capacità di vivere in mezzo ad una famiglia. È un adattamento genetico al nuovo ambiente. Allora, nessuno di questi tre metodi funziona. Bisogna inventare un nuovo metodo. Ce l'ho io? No. Io non ho nessuna voglia di venire a dire... Ecco, arrivo, vi dico che il manuale... Non vuol fare il maestro di vita. No, non ce l'ho il maestro, però... E quindi chiudiamo il libro così? Volevo chiuderlo così, ma non è vero, perché io sono solo in grado di dire che una educazione nuova nel tempo, oggi con internet, oggi con il senso della bellezza, che è una bellezza superficiale, oggi insomma con il sesso che è diventato solo uno strumento per usare, come avere una macchinetta in tasca. Allora, dico che ci sono alcuni punti che per inventare questa società deve inventare. Ce la fa dirmeli in due minuti? Sì, ce la faccio. La prima cosa, guardi, deriva dalla biologia. La scienza ha dimostrato che il nostro cervello ha due dimensioni. Una parte è una dimensione strutturata, fissata, e dopo, subito dopo la nascita, è così. Ma c'è, ecco la grande scoperta, c'è una parte del nostro cervello che è plastica. Quindi riprogrammare, cioè, il cervello. Sì, struttura il cervello in funzione delle esperienze. Un fitness cerebrale. Allora cosa vuol dire? Che è possibile modificare le teste e che è possibile, se qualcuno sbaglia, correggerlo. E quindi non c'è mai il senso della perdita del figlio. E un secondo punto? Beh, poi volevo dire questo. Sì. Quindi... c'è una grande importanza, è un materiale plastico il cervello, per cui lo si... Per e questo cui, per lavorare su noi, ma lavorare sugli altri? Per cui solo quindi. Il secondo, ecco, bisogna che noi passiamo da un principio dominante dell'io al noi. Bisogna che noi cerchiamo di dire chi siamo insieme in casa. Perché mi sembra più difficile questa seconda che ristrutturare il cervello, che sembra una cosa assurda. Perché siamo proprio centrati sul mio. Guardi, se noi chiedessimo teoricamente di eliminare oggi a tutti gli italiani non usate mai io e non usate mai il mio, sarebbe il primo giorno di silenzio assoluto nel paese. Certo, è vero. Perché tutto è giocato sul mio, sul tuo, sul suo e sull'io. Allora, qui ecco la svolta educativa e qui non possiamo dire è colpa della madre, è colpa dell'insegnante. Quello che sta provando a fare il nuovo Papa, Papa Francesco. In qualche modo sì, speriamo che lo lasciano parlare. Lui è un Papa, parlare, lui parla per le sue pecorelle, il mondo sì, è più articolato. Però ecco il noi. Allora, per esempio, la bellezza di poter fare insieme. Lo sa, la parola più usata al mondo da internet è selfie, e l'autoritratto fatto col telefonino. Questo è un elemento in più che le do per riflettere. La parola più usata al mondo è il selfie. L'autoritratto uno si fa con il proprio telefonino. Grazie professore Andreoli, alla prossima.